Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ormai è fatta, di Horst Fantazzini, parte terza. Grasso è preoccupato e chiaramente scettico sulle possibilità che le mie richieste vengano accettate. Cerco di tranquillizzarlo. Gli dico che qualche settimana dietro le nostre vite avrebbero avuto il valore del prezzo d'un poco di piombo, ma che oggi al ministero siede un uomo di sinistra che teoricamente dovrebbe avere altri parametri per giudicare il valore della vita umana. Ho letto da qualche parte che il nuovo ministro conobbe il carcere per attività antifasciste. Strana situazione. Lottare, sacrificarsi per poi ritrovarsi 30 anni dopo a capo d'un dicastero la cui funzione è d'operare per l'applicazione di leggi ancora così profondamente tinte di nero. Silenzio, Grasso guarda ancora il suo anello. Cosa faranno là fuori? Circolano molte voci, ci sono 50 tiratori scelti appostati, stanno studiando di fare entrare nell'ufficio un gas che fa cadere addormentati. La stampa del 24/7/1973. Sicuramente stanno tentando di trovare una soluzione che permetta di mettere me fuori combattimento senza rischiare eccessivamente la vita degli ostaggi. Ma quale? La radio non mi dà alcuna informazione interessante. Se fossimo altrove, per esempio in Francia, radio private come Europa 1 o RTL seguirebbero gli avvenimenti in diretta ed io saprei cosa succede là fuori. Eravamo tutti lì venuti da Milano, da Torino, da altre parti per vedere che cosa sarebbe successo quando il dramma si fosse compiuto. Avevamo fatto il lungo viaggio nella pianura sotto il sole, poi tra le colline delle Langhe, ascoltando la radio della macchina che ripeteva monotona, Horst Fantazzini, il detenuto del carcere di Fossano, ha ferito gravemente 3 guardie e ne ha prese in ostaggio altre 2. Ha chiesto un'automobile per poter fuggire con gli ostaggi, che tiene sotto il tiro della sua arma. Magistrati e funzionari del carcere cercano di convincerlo ad abbandonare il suo folle piano. C'era quest'uomo dentro la prigione e noi lì fuori. Fra carabinieri, poliziotti e giornalisti saremmo stati 100, 200. C'era un gran movimento di giovani in borghese con le armi in mano. Mai visto in Italia tanti uomini della forza pubblica con tante armi, tutte dell'ultimo tipo, tutte molto speciali. Questa cos'è? Ho domandato ad un giovanotto che teneva una lunga pistola appesa ad una mano. Una rivoltella Brigadier Beretta lunga, ha risposto, può sparare a colpi singoli e a raffica. Un ufficiale dei carabinieri incaricava un altro di questi giovani militari di andare alla sua macchina. Portami il mio MAP, che è preciso. Un anziano maresciallo, anch'egli dei carabinieri, uno di quei marescialli maggiori avanti negli anni che comandano le stazioni del paese, portava avanti e indietro davanti alla prigione una carabina più grande di lui, con un cannocchiale sulla canna. Il suo fucile faceva venire in mente le fotografie dell'arma con cui Oswald sparò a Kennedy il giorno del 25/7/1973. Franco Pierini. Piccirillo chiede d'andare alla toilette. Che stia ripensando alla sua medaglia? Lo lascio andare, ma cerco di non regalargli alcuna possibilità di sorprendermi. Se nelle ore che dovremo ancora coabitare insieme Piccirillo riuscirà a disarmarmi, bisognerà proprio dire che la sua patacca di metallo l'avrà guadagnata. Chiedo l'ora a Piccirillo, le 14 e qualche minuto. Accendo la radio, ma è troppo tardi per il notiziario. Sono stanco di dipendere da Piccirillo per conoscere l'ora. quindi gli dico di passarmi il suo orologio. Quando lo lascerò libero glielo restituirò. Mi consegna immediatamente il suo variopinto cronometro. Sorridendo gli dico che per quest'atto sarò denunciato per rapina. Sorpreso mi dice che lui non mi denuncerà. Replico che ci penserà il magistrato, ma che si tranquillizzi. In una situazione del genere non è certo una denuncia per rapina che può aggravare la mia situazione. Solo mi dispiace d'essere denunciato per un orologio. Fosse stato l'orologio d'Agnelli, pazienza. Io e Grasso fumiamo incessantemente, pensando che è tutta la mattinata che metto cenere e cicche diligentemente nel portacenere. Mi scappa da ridere, tanto m'appare d'un colpo grottesca in una situazione del genere questa civile abitudine. Condizionamento, condizionamento, quante castrature psicologiche in tuo nome! Grasso mi guarda ansiosamente, la mia risata lo sta preoccupando. Per tranquillizzarlo gli ripeto il corso dei miei pensieri, ma non sembra afferrare il liberatorio senso di rottura che può celarsi nel voluto gesto di gettare una cicca su d'un tappeto. Cosa staranno facendo là fuori? E loro, i miei amici venuti da così lontano, se ne saranno andati? Spero che abbiano compreso che a questo punto è essenziale andarsene. Con tutti gli sbirri che ci sono nella zona, se restano nei paraggi per aspettare la mia uscita, saranno quasi sicuramente arrestati. Se ce la farò a seminare gli inseguitori per alcuni giorni, dovrò cavarmela da solo. Con i documenti falsi in mio possesso e i soldi che mi consegneranno, non sarà difficile. Ma ce la farò a fuggire dalla trappola? Sì, sento che ce la farò. Giocherò sul fatto che essi, sì, sento che è possibile farcela, ma non debbo assolutamente commettere sbagli, altrimenti sarà finita. Uno sbaglio e sarà finita. Finito cosa, Horst? È da tempo che è finito e tu lo sai, anche se continui a barare con te stesso. Sono anni che sogni ad occhi aperti, un riscatto impossibile. Che t'arrampichi sugli specchi, che rincorri una verginità morale irrimediabilmente perduta. Sì, chi ti vuol bene dice che tutti i tuoi guai sono venuti da quella volta che t'accusarono d'un reato che non avevi commesso. Fuggisti dal carcere, poi. Sì, quando una condanna è giusta, ma una società ingiusta può emettere condanne giuste? Ci piomba addosso a volte il rifiuto di subire fisicamente un'ingiustizia è la più umana delle reazioni individuali. Ma quando una condanna scaturisce dall'interno di noi stessi diventa estremamente difficile sopportarne il peso. Non sono certo le rapine fatte e non fatte a pesarti. Rapinare banche su banche ti dava un alibi morale, o almeno ne eri convinto. Le banche sono i templi del capitalismo, rapinarle è come bestemmiare in faccia ai padroni. Poi ti piaceva leggere sui giornali la piccola leggenda che giornalisti annoiati dal loro tran tran provinciale ti stavano fabbricando. Il rapinatore solitario, il rapinatore cortese, l'inafferrabile primula rossa. Sono piccole cose che aiutano a superare i propri complessi più o meno consci. La tua calma, la tua faccia onesta, la diffidenza verso l'ambiente erano i tuoi punti di forza. Sì, certo, a volte era difficile fare tutto da solo, ma il fatto di non poter contare su confidenze tagliava le gambe alla polizia. Tutto ti riusciva facile e ti divertivi a mandare biglietti di derisione a quei commissari che avevano imparato così bene il tuo difficile nome tedesco. In Francia, in Germania, era la stessa cosa. I vari Herr Doktor che abitavano nel condominio tedesco che avevi scelto come residenza non erano certo razzisti verso questo commerciante italiano discreto e gentile che così spesso s'assentava per affari. Si può essere un po' razzisti verso l'immigrato che prostituisce la sua forza lavoro per un pugno di marchi, ma non verso chi esercita dignitose professioni liberali. Poi questi immigrati sono così rumorosi, preferiscono l'olio d'oliva al burro, il vino alla birra, la pasta alle patate, poi spendono così poco. Questi marchi che mensilmente mandano alla numerosa famiglia lasciata al lontano paese rappresentano una pericolosa emorragia per l'economia tedesca. Senza parlare di quell'assurda storia sulla supposta superiorità virile che popoli latini, favole che nondimeno abbindolano sane ragazze tedesche di tanto in tanto. Horst, tutto ti riusciva facile ed apparentemente non avevi problemi. Apparentemente, e questo malessere che ti cresceva dentro, una volta al mese riempire una borsa di lire, di franchi o di marchi, poi un giorno trovarti a pensare che a questi soldi, che tu racimoli in pochi minuti per un operaio, rappresentano anni e anni di duro lavoro. Sì, ma tu che colpa ne hai? Tu non hai mai sfruttato nessuno. Com'era quella frase? Ah, sì, ecco. Se un uomo solo infrange la legge, commette un reato, ma se lo stesso atto viene compiuto contemporaneamente da 10.000 uomini, non si tratta più di un reato, bensì di una rivoluzione. Sì, non è colpa tua se loro accettano supinamente di arricchire i padroni. Se tutti facessero come te, però non mossi dall'egoismo, ma dall'impossibilità di lasciarsi sfruttare o di farsi sfruttatori, la rivoluzione sarebbe fatta e la nuova società alle porte. No, Horst, puoi ingannare tutti, ma non te stesso. Il disagio permane e recitare la parte del commerciante benestante ti pesa sempre più. Sei sciocco, Horst. La gente ti giudica per quello che sembri, per quello che vuoi far credere loro. Il fatto che i tuoi vicini di casa, la polizia, ti credano un onesto commerciante equivale per te a restare libero. Non lasciarti rodere dai tuoi problemi metafisici in Italia. L'hanno già condannato 2 volte, in contumacia, 15 anni di prigione e ti attendono altri processi. Libero, fuggire d'una prigione per rinchiudersi in un'altra. Per un uomo è tremendo rinunciare alla propria identità. Vivere con una brava ragazza ingannandola quotidianamente, mascherando parte della propria vita, della propria personalità, sentire a volte imperioso il bisogno di aprirsi, di ricercare complicità morale, ma non farlo per prudenza o per timore di non essere compresi. Avere trascorso la maggior parte della propria esistenza in ristrettezze economiche e adesso, con la possibilità di levarsi ogni capriccio, sentirsi vuoti e non desiderare nulla di particolare. Guardare al proprio futuro e vedervi il vuoto, pensare all'inutilità dei propri progetti, accumulare una certa cifra onde poter vivere tranquillamente, senza più essere costretto a rischiare. Già vivere tranquillamente. Tranquillamente come? Come adesso, vegetare senza uno scopo, senza soddisfazioni morali, nel senso antiborghese del termine. Sì, è brutto non essere capaci di rifugiarsi completamente nell'egoismo, particolarmente quando si vive di rapine. Quel giorno, Horst, eri particolarmente triste, ricordi? Il piede schiacciato contro l'acceleratore. Guardavi la strada venirti velocemente incontro. Conoscevi benissimo quella strada, sapevi benissimo che c'era quella curva, ma non levasti il piede. Per quanto tempo hai guardato le lamiere contorte della macchina distrutta, non riuscivi a capacitarti d'essere uscito senza un graffio da quell'incidente. Era il tuo periodo fortunato, Horst. Qualsiasi cosa facevi, ti riusciva. Se il suicidio fece eccezione alla regola, voleva dire che dovevi ricercare una soluzione diversa ai tuoi problemi. Ogni tanto, ricordi, mandavi 2 soldi a giornali di controinformazione che t'erano simpatici, per poi vergognarti come un cane comprendendo che ti mettevi sullo stesso piano del capitalista, che dà qualcosa in beneficenza per tacitare i suoi rari e debolissimi rimorsi. Fu a Parigi che trovasti la risposta ai tuoi problemi. Cominciavi a sperare di salvarti, d'essere ancora in tempo a dare uno scopo alla tua irrazionale esistenza. Quando pochi mesi dopo, a Saint-Tropez, mordesti irrimediabilmente la polvere. Era il 27 luglio 1968. Il carcere francese è quanto di più duro si possa immaginare. Dopo due tentativi di evasione, ti ritrovasti a Marsiglia, nelle tristi Beaumetz, immenso e squallido carcere costruito dai tedeschi durante l'ultima guerra. Eri in carcere da pochi mesi, ma il tuo nome era già scritto in rosso, isolato. 23 ore rinchiuso in cella, senza la possibilità di vedere o parlare con chi che sia. Un'ora d'aria in un copicolo poco più grande della cella. Unico svago, due libri passati settimanalmente dalla biblioteca. Niente giornali, autorizzati nei carceri francesi a partire dal settembre 1971. Niente pacchi postali, niente radio, televisione, impensabile. Isolamento totale, dal mondo esterno, secondini cui la lunga abitudine all'uso di un regolamento inqualificabile ha determinato nel loro cervello deformazioni professionali irreversibili. Proibito cantare, proibito parlare, alla finestra, proibito scambiarsi libri della biblioteca, proibito sedersi o sdraiarsi sul letto durante il giorno. Fuori dalla cella, proibito parlare, fumare, tenere le mani in tasca o la giacca sbottonata, camminare con non allineati. Il secondino vigila con grande zelo affinché tutti questi divieti non vengano infranti. Se riesce a trovarti in fallo, è felice ed il suo rapporto ti porta inevitabilmente in cella di punizione. Vere celle di punizione. Prigioni nella prigione. Giurasti a te stesso di non lasciarti andare. Resistenza passiva, altrimenti ti avrebbero distrutto come tanti. In tasca, nel taccuino che ti porti dietro da tanti anni, c'è una poesia che scrivesti a Marsiglia, in quel periodo, là. Dicembre 1968. L'attesa, a Camus. Mi guardo intorno e vedo il vuoto. Chiamo e non mi risponde che l'eco. Questa solitudine lascererebbe meno se pesando il silenzio non vi trovassi incrostati ogni dove risatine di scherno, tentennamenti di capo, gesti e sguardi complici, condannanti lo straniero, l'intruso, l'escluso. No, non griderò, non darò loro alibi per giustificare l'assurda condotta, per pontificare sull'inesistente sconfitta. Attenderò un altro straniero, altri intrusi, tutti gli esclusi. Quel giorno non renderemo loro lo scherno di disprezzo, ma ci limiteremo a lasciarli estinguere, nel loro misero deserto intellettuale, in solitudine, silenziosamente, senza eredi. In gennaio ti mandarono ad Aix-en-Provence, competente per decidere sull'estradizione richiesta dall'Italia. L'11 gennaio 1969 riuscisti a fuggire. Aix è una graziosa città piena di coreografiche fontane, una città che vide manifestarsi la pazzia del fratello, Van Gogh. Quel giorno Horst ti videro correre per le strade d'Aix con una catena al polso ed un sogno di libertà negli occhi. Ti riportarono al carcere sporco, insanguinato, il cuore colmo di rabbia ed umiliazioni. Il 29 gennaio dello stesso anno eri a Clairvaux, il più duro e disumano carcere francese, e ci restasti sino a quando te stradarono. Mentre ti trovavi a Clairvaux, due detenuti si impiccarono, uno si suicidò spettacolarmente dandosi fuoco alla maniera dei Bonzi, due furono uccisi a coltellate in liti. Partecipasti a tre scioperi della fame collettivi, 550 detenuti, di 11, 9, 5 giorni. Un'infermiera ed un guardiano furono presi in ostaggio da due detenuti che chiedevano la libertà in cambio della vita degli ostaggi. La CRS, Corpi Repubblicani Speciali, la nostra celere, tentò un'azione di forza. Gli ostaggi furono sgozzati. I due detenuti, Buffet e Bontemps, sopravvissero per poi essere condannati a morte e ghigliottinati. Anche a Clairvaux, Horst, Tentasti l'evasione, ma ottenesti solo botte, cella di punizione e nuove umiliazioni. Passarono 4 anni e finalmente fosti rimandato in Italia. Arrivasti alla frontiera con manette ai polsi e catene ai piedi, ma eri contento, quasi che fossi libero. Eri pieno di speranze, t'avevano condannato in contumacia per 2 rapine, d'una delle quali eri innocente. Dovevi ancora essere processato per una lunga serie di rapine. In Francia, dopo promessa di un unico processo per le rapine ancora in attesa di giudizio di primo grado, con successiva riunificazione in appello con le altre 2, su consiglio del tuo legale francese, confessasti tutto. Avevi agito da solo, con armi giocattolo, non vi era mai stata la violenza sulle persone. Considerati gli anni scontati in Francia, avresti potuto cavartela con pochi anni ancora. L'avvocato si batté come un leone, ma le sue istanze di riunificazione dei processi furono sistematicamente respinte. Le tue condanne avrebbero inevitabilmente raggiunto il tetto dei 30 anni. Cominciasti a rifiutare di presenziare ai processi, limitandoti ad inviare alla corte lettere di protesta sui codici fascisti. Oggi, per la prima volta in vita tua, hai usato violenza. Tu che hai sempre preferito farti arrestare piuttosto che far del male. Oggi hai sparato su degli uomini che volevano impedirti di strappare con la forza quella libertà ormai diventata irraggiungibile con mezzi leciti. Quella libertà che dopo 5 anni di duro carcere ritieni essere divenuto un tuo diritto inalienabile. Adesso sei qui, con una pistola puntata contro 2 poveri diavoli, deciso a giocare sino in fondo la tua ultima carta. Sei l'unico a sapere che la tua piccola Mauser non ha più che un solo colpo in canna. Sei l'unico a sapere che se il tuo bluff crollerà, quell'ultima pallottola scriverà la parola fine sulla tua storia. Horst, perché guardi così fissamente la tua Mauser? Il tuo sguardo è lo stesso col quale guardavi la strada venirti velocemente incontro 5 anni e mezzo fa, là, in Germania. Scuotiti, Horst, dopo tante speranze, delusioni, umiliazioni, percosse, privazioni, dopo tante lotte, dopo una così lunga attesa, è tuo preciso dovere lottare sino in fondo. Pochi giorni fa scrivesti una lettera alla tua famiglia, dicendo che spesso pensi ad una casa, 2 locali in riva al mare, che pensi di correre con i tuoi figli e la tua piccola Anna sulla vicina spiaggia, felici di poter correre sulla sabbia, nell'acqua, da asciugarvi al sole. Concludevi scrivendo che forse anche per voi esiste da qualche parte un'oasi di pace nella quale godere insieme queste gioie belle e semplici, queste gioie che ogni essere umano dovrebbe avere il diritto di cogliere. Cosa avranno pensato i tuoi leggendo questa lettera? Una lettera come tante. Adesso, alla luce di quanto successo, oggi capiranno che tu a quelle cose ci credevi realmente. Comprenderanno che tu speravi davvero nell'esistenza di un paese amico, disposto a concederti fiducia ed asilo, disposto di permettere alla tua famiglia di raggiungerti qualora essi l'avessero desiderato. Esisteva un paese del genere? Se esisteva, dopo la polvere sollevata oggi, sarà molto difficile scovarlo, sempre se riuscirai ad uscire libero da questa vicenda. Ore 15. Grasso continua a guardarsi la fede. Il notiziario radio non mi dà alcun particolare su quanto accade là fuori. Piccirillo manifesta il desiderio di bere un caffè. Cosa tramerà ancora? Forse di cogliere al balzo una mia eventuale disattenzione? Gli dico d'attendere, poi si vedrà. Sono trascorse quasi 6 ore da quando siamo asserragliati nell'ufficio del direttore. Stranamente non sono stanco e mi sento molto più calmo delle prime ore. Nelle prime ore il pericolo di improvvisi colpi di testa era maggiore. Adesso la situazione deve essere totalmente sotto il controllo delle più alte autorità. Non è che questi considerino la vita di due secondini particolarmente importante, ma temono la reazione dell'opinione pubblica, quindi cercheranno di evitare passi falsi. Ore lunghe, dense di interrogativi, ripensamenti, dubbi, paure per la sorte dei due ostaggi, dei due sventurati che erano in balia del bandito, il quale già al mattino aveva dimostrato d'essere deciso ad ammazzare. I ministeri di Grazia e Giustizia e dell'Interno e il capo della polizia erano tenuti continuamente informati dell'andamento della vicenda. La stampa, 25 luglio 1973. Certo, i centri di potere ed autorità non amano farsi mettere il coltellino alla gola. Uno sbaglio da parte mia, anche infinitesimale, e non me lo perdoneranno. Attendere il buio, per esempio, mi fa comodo, per vari motivi. Gli elicotteri non potranno seguirmi. Mi sarà forse più facile fare perdere le mie tracce. Ma è sicuramente un grande vantaggio anche per loro, dato che possono impiegare tutte queste ore per preparare vari piani d'azione, intercambiabili secondo le circostanze. Ad ogni modo, per quanto mi riguarda, non ho più nulla da perdere. Tra un morto vivo sepolto a vita in una prigione ed un morto morto sepolto in un cimitero, preferisco quest'ultima eventualità. Almeno quei pochi che mi stimano mi ricorderanno come uno che ha accettato la lotta sino all'ultimo istante e che ha esercitato sino in fondo il suo diritto all'autodifesa. Quando la giustizia diventa ingiustizia e la vittima d'un sistema assurdo non ha più mezzi civili per ristabilire l'equilibrio tra l'incubo e l'equo, tutti i mezzi diventano moralmente validi quando vengono usati per sottrarsi ad un sopruso. Se il sangue versato da un popolo in lotta per scuotersi dal giogo e raggiungere la libertà è giustificato, perché non deve esserlo quello del singolo chiaramente vittima di un'ingiustizia? In una società civile non è ammissibile farsi giustizia da sé, anche quando tutti gli altri mezzi sono esauriti? Quei poveretti che hai feriti, quei due che tieni in ostaggio, facevano il loro dovere. Dovere è una parola che prende molto posto. Dovere verso chi? Perché esistono le prigioni? Per chi sono state create? Basta sfogliare una qualsiasi statistica per vedere senza ombra di dubbio che il 99% dei frequentatori delle prigioni proviene dagli strati più umili del proletariato. La prigione, con tutto il suo apparato burocratico repressivo, altro non è che strumento di intimidazione ed emarginazione per coloro che non vogliono o non possono inserirsi in quell'alienante società capitalistica, o per meglio dire, sei autorizzato a sfruttare a tuo vantaggio altri unicamente perché più deboli o meno dotati di te. Darwin, con le sue teorie sull'evoluzione, diede giustificazioni e fondamenta scientifiche al modus operandi capitalistico, quindi si comprende perché lo portarono in trionfo. Kropotkin, in contrapposizione a Darwin, scrisse: «Il mutuo appoggio, demolendo moralmente e scientificamente il concetto capitalistico che il più forte o maggiormente dotato possa servire e sfruttare i suoi fratelli più sfortunati. Alle teorie comunitarie dell'anarchico fu fatta più fredda accoglienza. Le prigioni esistono quindi quasi unicamente per difendere il concetto di capitale. I nostri codici sono voluminosi, ma se si togliesse il concetto di proprietà privata non ne resterebbe che qualche pagina concernente fatti di costume e reati che reati non sono, perché riguardanti disfunzioni mentali derivanti dalla coercizione materiale e psicologica che l'attuale società esercita su ognuno di noi». Dato che la maggior parte della popolazione ha più debiti che capitali, a chi servono le prigioni? Ritornando alle guardie carcerarie, esse facevano il loro mestiere ed erano convinte di fare il loro dovere. Anche le guardie dello zar ne erano convinte, come quelle di Batista, come quelle della Cina, dei mandarini, come ne sono ancora convinte quelle di Franco e quelle di tutti i tiranni che reggono i figli del mondo. Ne erano convinti forse anche coloro che prestavano servizio nei lager nazisti, o almeno l'hanno affermato al processo di Norimberga. Questi esempi hanno dato vita all'enunciazione che è dovere morale d'un soldato di rifiutarsi di eseguire un ordine contrario alla morale o che sia causa diretta o indiretta di una ingiustizia o del perpetuarsi di essa. Da anni non si fa che dire da ogni parte che i nostri codici sono assurdi, che lo spirito della Costituzione viene continuamente calpestato, che le nostre carceri sono indegne d'un paese che si vuole civile. Quanti poliziotti si sono rifiutati di effettuare un arresto ingiusto? Quanti magistrati si sono rifiutati di erogare condanne per reati sopravvissuti ad un'epoca che si vuole superata? Quante guardie carcerarie si sono rifiutate di fare eseguire una condanna chiaramente ingiusta? Non esiste avvocato o magistrato che possa onestamente affermare che la mia condanna è proporzionale al danno arrecato alla collettività. Come me ce ne sono tanti, e ce n'è anche peggio. Allora, se io o altri siamo chiaramente vittime di ingiustizie, se non esiste altro mezzo che la ribellione per rimuovere l'ingiustizia stessa, la violenza usata contro coloro che contribuiscono al mantenimento di questa è ingiustificata. Libri ribelli. Libri ribelli.